via dal fango e dalla notte scura che ci fa paura. Ma ci sarà qualcosa che possiamo fare. Contrabbando, giochiamo con il fuoco sotto banco, fianco a fianco è tutto a contrabbando. Adesso che uscivamo via dal fango, fianco a fianco è tutto a contrabbando. Però va tutto bene, e se qualcuno te lo chiede, come stai, come sto, come stai, come sto. Jolly Roger, abbiamo fatto i primi saluti alle nostre amiche del gas. E salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche che frequentano lo spazio del Brancaleone, che ci ospita come tutti i venerdì. Un ringraziamento, un saluto a tutti i colleghi e tutte le colleghe di Idea Prisma. E poi piano piano proseguiamo con consuetudine i nostri saluti. Ma ora passo il mic al nostro amico Matteo, che ci racconterà alcune cosette. Diciamo che con lui stiamo iniziando un percorso che riguarda alcune cosette che ora iniziamo a raccontare. Piano piano si sveleremo questo mistero. Oh. Ciao a tutti, sono Matteo. Il Natale è vicino, quindi parlo delle città europee. Durante le feste, oggi vi parlo di Bruxelles, che capitale del peggio. Perfetto, intanto diciamo che povero Matteo, abbiamo compassione di lui oggi, perché purtroppo è senza voce, anzi questo venerdì l'ha recuperato durante la settimana che ci siamo visti, era un po' più rauco, ma oggi come sempre si è rasserenato. Il mercatino di Natale è uno dei più belli in Europa e si tiene a Grand Palace dal 25 novembre al primo, tenendo la vita per paritare un grande albero di Natale tale lunedì giorni. Allora, questi mercatini iniziano il 25 di novembre, che fra le tante cose inizia quello che è considerato il Black Friday, o meglio il weekend che anticipano quello che sarà poi lo shopping natalizio. E ora ripasso il mic al nostro amico Matteo. Benissimo, da fare la rosa panorica, mercatini ci sono per tutta la città. Il pezzo già San Nicolas, che parla di regali ai bambini tra il 5 e il 6 di dicembre. Perfetto, che poi interrompo nuovamente il nostro amico Matteo, il 6 dicembre San Nicola, effettivamente era quello che una volta si festeggiava e si considerava Babbo Natale. Piccole chicchette, intanto proseguiamo la nostra puntata con la prima scelta musicale di Matteo. Thank you. E ritorniamo in diretta sempre dal Brancaleone. Ripasso il mic a breve al nostro amico Matteo che ci racconterà. Abbiamo parlato un po' di Bruxelles, del mercatino che natalizio di Bruxelles, e ora chiaramente abbiamo unito l'utile col dilettevole e quindi parliamo esclusivamente, se non di piatti tipici di Bruxelles. Oh, piatti tipici di Natale, il percio, sono cose con le patate fritte, cosine, l'amore avvocato, il coniglio alle prugne. Il dolce Natale è il rocchetto, cioccolato, il di con pane o marmellata, mangione tata cioccolata. Perfetto. Quindi diciamo questi erano i piatti tipici di Bruxelles, che è il marzapane e soprattutto la tanta cioccolata. Noi da noi ci abbiamo diversi tipici piatti che piano piano anche lì sveleremo, perché a breve il nostro amico Matteo farà un viaggio e ci racconterà di questo suo viaggio. Oltre a Verona passerà in un'altra città italiana. Sto parlando troppo, quindi ripasso la linea. Anzi, ripasso la linea alla musica. Torniamo in diretta, questo è sempre solo Jolly Roger, 17 e 18 minuti, in diretta come sempre dal Brancaleone. Abbiamo salutato prima le nostre amiche del gas, ora Un saluto al nostro amico Giovanni che si trova in quel di Trieste. Salutiamo tutti i ragazzi che sono all'ascolto di Jolly Roger. E niente, ora abbiamo parlato un po' di Bruxelles e del Belgio con Matteo, e ora è il turno della nostra amica Alice. Ciao a tutti, oggi sono Alice e volevo raccontarvi che sono andata a Porta di Roma a comprare con il calendario dell'avvento di Urocher. Niente, ci sono un sacco di cose, il detergente per il viso, maschere con la camomilla per il viso, dei trucchi, trattamento per i capelli, igiene bagno, doccia alla mandorla, eccetera, eccetera. Insomma, sono molto felice che arriva Natale. Soprattutto mi rende euforica aprire le finestrelle, calendario dell'avvento. E quando sono stata a Porta di Roma, ho visto che hanno allestito le bancarelle, forse faranno anche la pista di pattinaggio. È bello il clima natalizio e mi dà allegria, anche perché io insieme a mia sorella ho sistemato il calendario, ho fatto tante cose. Perfetto, mitica Alice con i suoi racconti e soprattutto con questo calendario dell'avvento all'ultima moda. E noi passiamo all'ultimo pezzo che aveva scelto il nostro amico Matteo. Tonight we're forever young. Ritorniamo in diretta, interrompiamo in maniera anche brusca la nostra scelta musicale, ma la tempistica è quella: dalle 17 alle 18 tutti i venerdì su www.pirateradio.it. Potete anche riascoltarci tramite podcast, basta cliccare direttamente dalla pagina internet di Pirate Radio. Anzi, a riguardo salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche del canale Telegram di Pirate Radio. Saluto tutti i DJ e tutti gli speaker che hanno un loro programma in quel di Pirate Radio e piano piano sveleremo anche una nostra piacevole sorpresa e collaborazione. Abbiamo parlato con Alice del suo calendario dell'avvento e visto che ogni settimana che passa inizieremo ad avvicinarsi a quello che è il Natale. Quindi settimana prossima io ho detto che è Black Friday, ma da ignorante ancora non sapevo che è il compleanno della nostra amica Alice. Allora, io volevo raccontarvi che il mio compleanno sarà venerdì prossimo e io porterò una torta. E quindi noi festeggeremo ufficialmente in diretta la nostra amica Alice. Porterò una torta e magari tanto i tovaglioli, i bicchieri Tutte e cose, anche da bere, perché cioè, oltre a mangiare bisogna anche bere. le... Esatto, Però magari... no, noi gli diamo solo del succo di frutta, perché l'ora è quella del succo di frutta. Portavo dei succhi, magari i bicchieri ce l'abbiamo qui, quindi stiamo a posto con la Poi mia magari, amica. esatto, è l'occasione per venire a trovarci di qualche amico di Alice. Poi quella nostra amica qui, che Maria, la è nostra Maria, amica Maria. esatto, lei ci aiuta sempre, ci dà sempre una mano. Esatto, oltre che ci dà da mangiare, ci dà anche una mano, cioè una mano molto piacevole perché insomma si sta bene quando si sta tutti insieme. Praticamente io per il mio compleanno... Ma dici un po' quanti anni compi, mo, giusto per curiosità. So che l'età alle donne non si chiede, però insomma, visto che siamo fra amici. Io ne faccio 20. 20, mazzo, cioè ragazzi, qui veramente, come si dice a Roma, ancora de primo pelo, ma a noi ci piace così, è la nostra Alicetta. Dai, dai, allora noi, visto che abbiamo raccontato sta cosetta qua, sta chicchetta, anzi, questa anteprima, proseguiamo col nostro pezzo scelto dalla nostra amica Alice. Guarda il cielo, proprio lì una stella cade. Tu che balli appena uscita da un locale. Dopo un po' la timidezza ti scompare. E ci troviamo a riva soli a fianco al mare. Fai finta che sia un passo dalla luna. E fidati se dico sei bella da paura. Facciamo finta che l'estate è solo nostra. Anche il mare ci guarda, sembra lo faccia apposta. Quando penso a te io sorrido e dopo non mi importa di niente. Se il vestito mi scende tu ti perdi. Ormai sei rimasta qui dentro, non è più questione di tempo. Se non vorrei alzarmi dal letto, tu resta di volta un cornetto. E poi carichiamo la macchina, senza sapere dove si va. E poi mi innamoro, ma capita. Fai finta che sia un passo dalla luna. E fidati se dico sei bella da paura. Quando penso a te io sorrido e dopo non mi importa di niente. Se il vestito mi scende tu ti perdi. La gente che ci guarda come fossimo matti, ma io vorrei fossimo sempre così. Quando penso a te io sorrido e dopo non mi importa di niente. Se il vestito mi scende tu ti perdi completamente. Ora sorridi ancora. Questo era il primo pezzo scelto dalla nostra amica Alice, che ci ha raccontato un po' di cosette. Nel frattempo è arrivato il nostro amico Lucone, che salutiamo insieme al nostro amico di lunghe battaglie Alessandro. E abbiamo, insomma, mentre passava il pezzo di Rocco Hunt, Alice improvvisava il suo balletto, anche perché da una settimana ha iniziato quella che è la sua attività di reggaeton. Quindi piano piano, come abbiamo raccontato già la settimana scorsa, ci farà vedere qualche passo. E niente, allora noi proseguiamo con un altro pezzo scelto sempre dalla nostra amica Alice, e poi ritorniamo in diretta sempre dal Brancaleone. Questo è solo Jolly Roger. La nostra serata finisce qui e ora la fine del mondo. Ciao ciao! Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno! È la fine del mondo, sopra la rovina sono una regina. Ma non so cosa salvare. Sono a pezzi, già mi manchi, occhi dolci, cuori infranti. Che spavento come il vento, questa terra sparirà. Nel silenzio della crisi generale, ti saluto con amore. Ciao ciao e ritorniamo in diretta. Ora passo il mic al nostro amico Luca. Buonasera a tutti, qui dal Brancaleone, sono Luca e oggi volevo raccontarvi delle bugie che dice anche il Pinocchio. Perché spesso capita che io mi invento scuse per non preparare il materiale che mi serve per poi parlare alla radio ogni venerdì, che noi ci impegniamo al massimo. Allora, diciamo che, esatto, questa Jolly Roger è anche una redazione, cioè nel senso che è un lavoro che si fa di gruppo, un lavoro che si fa di squadra e che si decide di volta per volta. Abbiamo anche una chat nella quale durante la settimana, oltre a salutarci e a chiacchierare, prepariamo quella che è poi la puntata del venerdì. Per me le bugie sono cose inventate per non dire la verità. Io a volte evito di dire la verità perché spesso faccio cose che non devo fare e devo imparare a prendermi la mia responsabilità. Jolly Roger, oggi parlando con il gruppo della radio Jolly Roger, ci siamo detti che la radio si sta crescendo piano piano con nuove stagioni e nuove cose, e quindi dobbiamo impegnarci di più, perché ho tante cose da dire di me e delle mie passioni. Esatto, anche perché, come tutti quanti, ognuno di noi ha delle passioni. Queste passioni vanno coltivate e soprattutto vanno condivise. Visto che siamo un gruppo, le cose, le passioni vanno condivise. La radio e il Branca mi piacciono molto. In più ho trovato degli amici, e quindi ascoltateci, perché noi siamo una band forte e gloriosa, e noi saremo sempre così e siamo super carichi. Benissimo, è super carico, però allora io volevo farti giusto un approfondimento del tema di cui hai parlato. Allora, le bugie, secondo te nella vita è bene dire le bugie o è sempre meglio dire la verità a discapito delle conseguenze? È meglio sempre dire la verità, perché se tu non dici la verità, allora naso lungo e Pinocchio. Sì, però naso lungo e Pinocchio, e poi le conseguenze? Le conseguenze le dovresti pagare, perché sono le tue responsabilità e non le responsabilità degli altri. Non devi dare assolutamente la colpa agli altri. Esatto, e detto questo noi passiamo direttamente alla musica. Super Idol The Show, 都没你的天白昼的阳光 都没你摇摇可爱105度的你滴滴青春的蒸馏水 Super Idol The Show, 都没你的天白昼的阳光 Della bugia nella vita, se premia o si pagano le conseguenze, con il nostro amico Luca, e ora gli ripasso il microfono. Oggi avrei dovuto parlare dell'amicizia che mi ha consegnato il mio operatore Andrea, che ci vediamo tutti i martedì al posto di Chiara, perché era troppo faticoso. Voi non ci ascoltate, ma a noi sembra che lo stiamo interrogando, invece non è un interrogatorio. È solo per domande. Perché ogni tanto io mi vergogno, quando vedo una ragazza e vorrei fare amicizia. Ogni tanto mi escono un po' le guancette rosse, come... Vabbè, questa cosa non c'entra nulla. Faccio amicizia con i maschi, ogni tanto più grandi di me, però dovrei... Se vorrei conoscerli devo essere sincero, non devo dire bugie, non mi devo dire fregnacce. Esatto, e soprattutto bisogna essere anche adeguati. Non è che si può fare il pazzo criminale così senza pagare le conseguenze. Se di conseguenze si parla. Perché mi vergogno anche quando sto in qualche cerimonia. Vabbè, insomma, diciamo che il nostro amico Luca piano piano si sta sciogliendo. Anche un anno fa, come ho scritto oggi su un post di Facebook, ci stiamo avvicinando al nostro primo anno di Jolly Roger. Il nostro primo anno che non è partito con la diretta, ma è partito con la conoscenza e la frequentazione dello spazio, quindi del Brancaleone. E sono cioè, insomma, è stata comunque un'esperienza, oltre che comunque quello che è diventato ormai una consuetudine di tutti i venerdì. Non so come giocare, fare certe cose, perché se si sta con un amico bisogna giocare tranquillamente, senza litigare, senza dare fastidio ad altre persone e soprattutto portare rispetto per rispetto, perché se non hai rispetto allora non sei una persona né civile né educata. Perfetto. La cosa che faccio più fatico è parlare e farci conoscenza piano piano, perché mi vergogno. No, allora devo raccontare questa cosa, lo interrompo nuovamente, perché noi con Luca ormai ci conosciamo da circa 2 anni, insomma, che la nostra frequentazione è diventata assidua, e comunque effettivamente i primi periodi abbiamo un po' barcagliato sui nostri rapporti, poi si sono sciolti, siamo diventati ormai come tutto con tutto il gruppo un corpo e un'anima. Perché non, quando conosco qualche persona non so cosa dire, tipo se vedo, vabbè, già la conosco, voi non la conoscete, la ragazza di mio fratello, gli dico sempre ti amo. Insomma, però insomma non è che è proprio il top. Mi servirebbe sapere una parola in più per conoscere questa nuova persona. Perfetto, insomma ci siamo un po' aperti col nostro amico Luca, ci siamo fatti una chiacchierata. Di solito non avvengono spesso questi momenti, ma inizieremo piano piano. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night. night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again. Torniamo in diretta, questo è sempre Jolly Roger, tutti venerdì dalle 17 alle 18, sono le 17.45 e come consuetudine non potevano che non mancare le offerte del nostro amico Luca. Per chi è appassionato del supermercato Castoro o altri supermercati Castori, offerte come Monster a vari gusti a 1,99€, Doritos gusto Tex-Mex formaggio a 50 centesimi, patatine fritte surgelate della Consiglia da 250 grammi a 2,50€ e come ultima offerta vodka alla fragola a 5,50€. Mi dico, questi sono i consigli degli acquisti di Luca, che fai tante cose. Prima, siccome c'ha una felpa spettacolare della DAF, mi ha chiesto: ma tu l'hai mai bevuta questa birra? Io ho detto: guarda, sì, però è una birra che non mi piace perché mi rimane un po' pesante. Siccome sono il vecchietto del gruppo, mi devo far distinguere anche nel digerire la birra. Detto questo, proseguiamo con la scelta musicale del nostro amico Luca ed è Supermodel The Måneskin, la miglior band di Roma. Dagli a tutti. Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you wanna love her, just deal with that. She'll never love you more than money and sex. She's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants on OnlyFans, I'd pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you wanna love her, just deal with that. She'll never love you, you just look a bit like. Every night's a heartbreak. Hey, don't think about it. Hey, Eccoci qua, ritorniamo in diretta, stoppiamo in maniera brutale la musica, ma a noi ci piace così, anche perché non si può fare diversamente. E detto questo, ripasso il mic al nostro amico Luca per la consueta rubrica delle battute. Mi scusi, per andare al cimitero dove devo prendere l'autobus in faccia? Chiude una lavanderia, faceva affari sporchi. La battuta di Batman. Che vitaccia, esclamò l'operaio. Ci vorrebbe un cacciavite più grosso. Detto questo, passiamo il nostro, anzi, prima di passare il prossimo pezzo, visto che ce l'ho proprio qua di fianco a me, passo il mic al nostro amico Lucone, che come ormai sta diventando anche per lui una consuetudine, ci farà i suoi saluti nelle diverse lingue e modalità che solo lui e per noi ci trasmette. Allora, il primo saluto faccelo in serbo, chiaramente. Dopo aiuto. Mi dico, il secondo in napoletano, concentriamoci. Ma io! Poi calabrese. Attia! Milanese. Vappilla! E per ultimo, non può che mancare il saluto romano, ma nel senso dialettale, non nel senso del gesto. Questi gesti a noi non ci piacciono proprio. Oh, bello, io so di Roma! Diglielo un po' e noi andiamo con un pezzo scelto dal nostro amico Lucone. Quando faccio rap, frata, va chi nome dos. Cosa, frata, cosa. Quando faccio rap, frata, capa narra posa. Cosa, frata, cosa. Quando faccio rap, frata, sono pericoloso. Cosa, frata, cosa. Cosa, frata, cosa. Cosa, frata, cosa. Viviamo tra parenti che si chiudono tu in mezzo. Uso il rap apposta per non fare il tipo grezzo. Super funk in una busta, sound pittoresco. Un lavoratore col datore di disonesto, ma sta metropolitana vindana scavata, ma state facendo, o state cercando, o state scingando, ma quando pigliamo, tre numeri po' bangolotte cacca non ci stiamo, finde poste stai facendo una fila quattro settimane, stiamo aprile ma mi volesse fare Natale a casa, finde trasmissione fra ci stanno criminale, Quirinale, Viminale, tutta Italia, Ferrinale, guarda televisione sono tutto uguale, si programma Rosegagna, pure si mora a Zanzara, una città che sta ingazzata, che ha chiappata, ammazzata, o sangue San Gennaro, a sto giro sei ghiacciato. Mamma che fridder. Quando faccio rap, frata, va chi nome dos. Cosa, frata, cosa. Quando faccio rap, frata, capa narra posa. Cosa, frata, cosa. Quando faccio rap, frata, sono pericoloso. Cosa, frata, cosa. Cosa, frata, cosa. Cosa, frata, cosa. Tu non hai fatta manovra, hai fatta retromarcia. Ma ne hai guardato spicchiette e arreta chi si schiaccia. Ti riguarda sta città tra mandolino e limone. E ce lasciati in da giungla, ma ne papate limone. Freddo come all'iglu, pure se io solo è sicuro. Tu vieni a faccia e i rap che faccio paura. Pure tu, nata carta conosciuta. Una vacanza do sto mare, vira ancora tutto scuro. Coppa sti montagne, sulla fiamma, sulla tanfa. Le magnate che liccate baffo frate, fatto self. Mentre caro cornicione a galleria. Vedo più mangiare in da tv, cadin da tutto frega mia. Internet è nata a Napoli e lo sai. Dalle signore sul balcone in sucio web wifi. Come Pino e Troisi partono niente frate. E come Alessandro Siani, una risata ci ha sempre salvato. Te voglio fa capire. Quando faccio rap, frata, va chi nome dos. Cosa, frata, cosa. Quando faccio rap, frata, capa narra posa. Cosa, frata, cosa. Quando faccio rap, frata, sono pericoloso. Cosa, frata, cosa. Cosa, frata, cosa. Cosa, frata, cosa. Ramo tempo che te faccio capi fra quale problema. Master chef, fumar che veleno. Goppo beat, certamente, spira tanto sentimento. Tutto boss, book in front, tutto Salvatore conto. Radeci una mano per nasci. Parterà lontana a casa mia. Caca per rindo solo ci asciuttam. Fratelli tu sai mo che aspettam. È un miracolo pacente. Signor tiene me present. Falla per chi mo te sta sentere. Ma un mezzo sarà lento. È un miracle per gent. Signor Diana me present, fa la pequimota sta sent a drama tutta sa galè. Quan faccio repo frata va chi no merdosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, frata, cosa. Quando faccio repo frata capa na raposa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, frata, cosa. Quando faccio repo frata sono pericolosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, frata, cosa. Cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, frata, cosa. Cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, frata, cosa. E niente, qualche secondo di stacco, purtroppo qui, purtroppo, anzi per fortuna, è un venerdì pomeriggio pieno, c'abbiamo anche ospite il nostro amico Damiano, è venuto in questo momento anche DJ Smash e Taueli a fare un saluto e a, insomma, di passaggio anche lui qua, e ora passo un attimino il mic al nostro amico Damiano. Buonasera a tutti, sono Damiano e... Alza la voce che se non ti sentiamo. E c'è ragione. E... Volevo dire a tutti quanti che sto scrivendo un romanzo tramite Microsoft Word che si intitola Le esperienze di Fra Luciano e racconta la storia di un giovane che vorrebbe farsi frate a un certo punto della sua vita e attualmente lo sto ancora scrivendo e non c'è un finale, ma speriamo che nel frattempo non diventa frate pure Damiano perché sennò diventa una cosa autobiografica. E noi proseguiamo così, ultimi pezzi per noi. Alla radio e ti darò il rimedio per poterti accorgere di pensarmi un po'. Io canterò alla radio e ti darò il rimedio per poterti accorgere di pensarmi un po'. Voglio avere un suono dalla radio differente dai soliti cliché, non troppo semplice, non troppo difficile, che mi parli di te. Voglio una musica dinamica, perché la vita non è statica. Voglio per me un suono che abbia dentro il tuo sapore. In quale musica ti riconosci, te lo... E questo è un pezzo che dedichiamo a tutti gli amici, a tutti i sostenitori di Jolly Roger. Quel che ascolti è quello che sei, non scordartelo mai. Io ad esempio giuro me stesso che io canterò alla radio e ti darò il rimedio per poterti accorgere di pensarmi un po'. Io canterò alla radio e ti darò il rimedio per poterti accorgere di pensarmi un po'. Voglio avere un suono dalla radio che mi dica cose che non so, che mi lasci un poco del tuo battito in fondo a questo ritmo. Voglio una musica dinamica, perché la vita non è statica. Voglio per me un suono che mi racconti come sei speciale. In quale musica ti riconosci, te lo chiedi mai. Quale suono fa da sottofondo ai giorni. Per poterti accorgere di